Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si parla di eleganza dell'anima e del talento di chi ha saputo tradurla in uno stile. Perché quando il destino interviene a completare ciò che la natura ha predisposto, si compie la perfezione. E l'immagine che gli altri ricevono corrisponde perfettamente alla sua matrice di grazia e di equilibrio. Oggi parliamo dell'incontro di una musa e del suo artista. Nascere in Europa nel 1929 e crescere sotto la dominazione nazista è certamente una di quelle esperienze che possono segnare una vita. A maggior ragione se sei una bambina esile in una famiglia senza grandi risorse economiche e tuo padre decide di andarsene senza mai più farsi vivo. È la storia di Audrey Kathleen Hepburn Ruston, meglio conosciuta solo come Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Come ebbe a dire un giorno proprio lei, se dovessi scrivere una biografia, la incomincerei così. Sono nata a Bruxelles, in Belgio, il 4 maggio del 1929 e sono morta 6 settimane dopo. Il figlio Sean ne parla così. Penso che l'infanzia di mia madre sia stata segnata da due grandi eventi. La perdita precoce di suo padre, che non morì ma che uscì dalla sua vita molto presto, e secondariamente vivere durante la guerra. Sono due cose che hanno segnato tutta la sua vita. Figlia di una madre forte e autorevole, forse anche per colmare il vuoto lasciato dal marito, Audrey, a sole 6 settimane di vita, contrae una brutta forma di pertosse. E non viene portata dal medico, ma viene rianimata, dopo una crisi che la fa smettere di respirare, a suon di sculacciate. È solo uno degli episodi legati alla sua infanzia che all'attrice piace ricordare. Così come quando durante la guerra i suoi fratelli mangiavano biscotti per cani o i bulbi dei tulipani perché non c'era altro. O quando lei, per non sentire la fame, stava tutto il giorno a letto a leggere. Cresce ad Arnhem, in Olanda, uno dei paesi che subì una delle occupazioni tedesche più lunghe, il primo ad essere invaso e uno degli ultimi ad essere liberato. Una delle battaglie che portarono alla liberazione dell'Olanda venne combattuta proprio ad Arnhem. British and Americans roll through Eindhoven, where the Dutch give them a rousing welcome. Per Audrey la liberazione rappresenta anche il primo contatto con un'organizzazione che la vedrà impegnata per anni verso la fine della sua vita, quella che prenderà poi il nome di UNICEF, come ricorda in un'intervista per un giornale olandese la stessa Hepburn. Trovare da mangiare durante l'occupazione tedesca era un problema. L'ultimo inverno fu il peggiore. Il cibo era sempre più scarso e il poco che c'era andava alle truppe. Subito dopo la guerra, l'organizzazione che poi diventò l'UNICEF venne a soccorrermi insieme alla Croce Rossa, con medicine e vestiti. Tutte le scuole vennero trasformate in centri di accoglienza e io fui uno dei tanti bambini a beneficiare di questi immediati soccorsi. Conosco UNICEF da sempre. La guerra è anche lo sfondo sul quale comincia a muovere i suoi primi passi di danza. La madre trova il modo di mandarla al conservatorio. La grazia innata in quella bambina dalla frangia folta, che copre la fronte e fa risaltare gli occhi grandi, non si può ignorare. Si esibisce in alcuni spettacoli in città durante la dominazione nazista. Racconta a Barry Paris, il suo biografo, che quel pubblico era meraviglioso. Facevano quelle che si chiamavano blackout performance, cioè si esibivano privatamente e clandestinamente per raccogliere fondi per la resistenza, senza fare troppo rumore alla fine, ovviamente per via dei tedeschi. Audrey diceva sempre che il miglior pubblico che lei avesse mai avuto al mondo era quello che non faceva il minimo rumore alla fine dello spettacolo. La guerra, con le sue lacerazioni, finisce, così come il matrimonio tra sua madre e suo padre. Il suo corpo e la sua anima saranno segnate per sempre da questi episodi, dalla mancanza di nutrimento fisico e affettivo, cosa che le darà quel corpo così fragile e flessuoso e quella voglia di colmare un vuoto attraverso la dimostrazione della sua vitalità su un palco. Sarà a Londra, dove la famiglia si trasferisce nel 1948, che Audrey potrà frequentare una vera e propria scuola di danza per dare seguito alle sue prime esperienze in Olanda. Appena arriva nella capitale inglese, si iscrive alla scuola di un mostro sacro del balletto di allora, Marie Rambert. Audrey è poco più che un adolescente, ma le idee chiare. Vuole stare su un palco e intrattenere la gente con la sua grazia, i suoi demi-plié, gli chassé e i rond de jambe. suo figlio Sean Ferrer ricorda i racconti della madre su quel periodo. Dopo un po' che frequentava la scuola, ha chiesto a Marie: ci sono delle chance per me per diventare una prima ballerina? E Marie le rispose: beh, probabilmente potresti avere una carriera come seconda ballerina. Ma no, non credo che ci siano chance. Sei troppo alta, troppo grande. E poi la massa muscolare, dovuta alla malnutrizione del periodo della guerra, non era quella giusta. Insomma, tutte quelle cose andavano tenute in considerazione. E mia madre le ha creduto. Sicuramente è un colpo all'autostima di Audrey. Ma il vuoto lasciato dall'abbandono del padre, le brutture della guerra, il ricordo di quella fame che nel tempo è diventata sempre più una fame emotiva, le fanno continuare a cercare una strada per potersi esprimere. Lei ha bisogno di raccontare ciò che le si agita dentro, di mostrare, anche per vincere la sua timidezza, che ha un'anima vitale. Comincia col teatro e mentre la madre lavora come portinaia in un hotel per mantenere la famiglia, anche lei racimola qualche soldo esibendosi in pubblico, cosa che le darà la possibilità di farsi notare e di arrivare anche ad essere presa per qualche particina in piccoli film inglesi. Ma l'occasione che darà inizio a una serie di eventi concatenati che la porteranno poi a Hollywood arriva con il film Monte Carlo Baby nel 1951. Passato, se ritorni non andrà perduto, non tardare più, manchi solo tu. Oh chérie, ritorna a Monte Carlo. Oh chérie, ritorna a Monte Carlo. La Costa Azzurra e la Francia in generale è fin dagli esordi una terra fortunata per Audrey. L'anima che traspare in ogni sua movenza, la sua eleganza nei modi e nei lineamenti, la fanno essere l'incarnazione di un esprit tutto francese. Così, mentre si trova a Monte Carlo, all'Hôtel de Paris, per girare il film Monte Carlo Baby, viene notata da un artista francese in cerca di qualcuno che potesse interpretare il suo ultimo personaggio sulle scene di Broadway. But I'm only a baby. Baby? Bullock, I refuse to utter such miserable drivel. What? You know what you can do with your precious picture. Bury it in a lonely place. Melissa. L'artista è Colette, che ha appena scritto l'opera Gigi. Non appena la vede recitare con tanta energia, esclama: voilà, ecco la mia Gigi. Quell'aria sbarazzina, i capelli corti e la forza di un adolescente. Quella donna che spinge per uscire sotto tratti androgini e lo fa con una tale grazia da sembrare l'incarnazione della femminilità nel momento stesso in cui la fugge, sono tutto ciò di cui ha bisogno Colette. Audrey forse non si sente all'altezza di recitare come protagonista a Broadway, o forse è solo il suo cuore che è rivolto alla danza, come ci tiene a rimarcare anche il suo biografo. Audrey Hepburn was a dancer. Audrey era una ballerina. Era tutto quello che voleva fare. Era quello che si preparava a diventare. In fondo, fece l'attrice per caso. Colette ha già più di 70 anni. Audrey ne ha appena compiuti 22. Si piacciono subito e partono alla conquista dell'America. Audrey, nell'autunno del 1951, salpa sulla Queen Mary verso il nuovo continente. Salpa verso il suo futuro. Il 24 novembre del 1951, Gigi debutta al teatro Fulton a Broadway. È subito un successo di critica e botteghino. La Francia la scopre, l'America l'accoglie, ed è solo l'inizio. In fondo, la grazia che Audrey mette nella sua recitazione è la stessa che una ballerina mette nell'eseguire i passi di danza. La recitazione è solo un altro modo di danzare. La musica è sostituita dal dialogo, ma le sue lunghe braccia accompagnano l'esile corpo sulla scena con la stessa profondità di un'étoile. Il successo ottenuto con Gigi le apre la strada al suo primo provino per un film ad Hollywood. Tell us about the war. You spent the whole war in Arnhem. Yes. Wasn't it pretty awful? Yes, very bad. Audrey ha i capelli corti, pantaloni neri, con una cintura sottile che segna il girovita e una camicetta bianca smanicata con al collo un fiocchetto di velluto nero. Sobria, semplice, perfetta. Avanza con un po' di insicurezza all'interno della stanza, ma ha sul viso quel sorriso che non lascia dubbi. Toglie le mani dalle tasche facendo quasi un semicerchio nell'aria, come a dire «Eccomi qui!» e si siede davanti agli esaminatori. Alle domande sulla guerra, sul periodo difficile che ha attraversato in Europa, risponde con la grazia che la contraddistingue, dicendo che è stata difficile, ma sempre con il suo grande sorriso. E anche in questa occasione ci tiene a sottolineare la sua prima passione, quella per la danza. William Wyler, il regista del film per cui sta facendo il provino, non ci pensa due volte. È lei, la principessa Anna, che reciterà al fianco di Gregory Peck in Vacanze romane. Anche se la Paramount Pictures, la casa produttrice del film, avrebbe voluto Elizabeth Taylor. Ecco qua, finito. It's perfect. Oh. You'd be nice without long hair. Now it's cool. Hmm? Yes. Cool. It's just what I wanted. Capelli corti, camicetta bianca, vita segnata da una cintura e un foulard annodato al collo. Quasi una specie di evoluzione dallo stile di quel suo primo provino, sono gran parte dei costumi che la accompagnano sul set di Vacanze romane. Quando Gregory Peck la vede recitare, chiede al suo agente che il nome della Hepburn nei titoli venga messo in risalto quanto il suo. Questa ragazza vincerà l'Oscar al suo primo film e il suo nome deve essere nei titoli, in cima, insieme al mio. Per tutta la vita, Gregory Peck rimarrà uno degli amici più vicini alla Hepburn. La complicità che si crea tra i due sul set del film forse è anche dovuta all'intuizione dell'attore che ha intravisto subito il talento della giovane attrice, come dice il figlio Sean. Ovviamente Gregory rimase un grande amico per tutta la vita. Era così gentile. Lei era appena stata scoperta e nei credits del film i titoli dovevano dire Gregory Peck in Vacanze romane e avrebbero introdotto Audrey solo alla fine. Gregory chiamò il suo agente da Roma e disse: dobbiamo cambiare questa cosa, se no mi sentirei uno sciocco. Gregory ovviamente ha ragione, quella ragazza è una forza della natura. La sua semplicità è così potente da diventare la quintessenza dell'eleganza. Qualcosa che si percepisce appena la si incontra, ma che ti rimane dentro a lungo anche quando se n'è andata. Una specie di carezza dell'anima di cui il mondo sembra avere sempre più bisogno. L'Oscar arriva nel 1954, come è inevitabile che sia. Ladies and gentlemen, in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday. Troppo. Voglio dire grazie a tutti quelli che negli scorsi mesi e anni mi hanno aiutata e guidata e mi hanno dato così tanto. Sono veramente, veramente grata e sono anche terribilmente felice. Grazie. Il personaggio della principessa Anna trova nella donna Audrey Hepburn la sua perfetta incarnazione e l'anno successivo a ritirare la statuetta per la migliore attrice protagonista ci sarà Grace Kelly, un'altra icona di stile che seguirà quell'inclinazione alla nobiltà anche fuori dal set. We'll scrape the grill and mop the floor or whatever Sal does back there and be ready for you tomorrow. Have a safe day. Come by, you'll enjoy the burgers. But I got my... Dopo Vacanze romane, per Audrey la vita cambia. È un'attrice giovanissima e il suo modo di stare sulla scena non assomiglia per nulla a quello delle altre attrici di Hollywood del periodo. La sua bravura, ma soprattutto il suo aspetto fisico, la rendono perfetta per vestire, il caso di dirlo, i panni di donna in grado di diventare sempre più il simbolo dello stile, un po' lo specchio di quegli anni. La moda, dopo la guerra, ritrova il suo splendore, vista anche come volano di un'economia che è in netta ripresa. Parigi è come sempre il faro che illumina la via verso lo stile, e Dior asseconda con i suoi abiti il clima di euforia che caratterizza gli anni 50, ridando alla silhouette femminile il suo posto d'onore. È la nascita del new look che piace a tutte le donne, a quelle dell'alta borghesia perché rivedono i fasti di un tempo e a quelle della piccola borghesia che vedono celebrati i valori cui hanno sempre aspirato. Fashions push politics off the front pages in Paris as top designers unveil their spring styles. A Dior creation is always news the world over, and here are the first films of one of the designers' newest fashions, a dress and jacket in wool with straw hat. The dress features, of course, the Dior shoulder line. Dior inventa gli abiti a tubo per il giorno, ampi per il cocktail e sfarzosi e lunghi per la sera. Le riviste di moda come Harper's Bazaar o Vogue cercano di instaurare un legame fortissimo tra le anonime lettrici e i grandi stilisti. La moda ha un potere enorme. Il new look tende a modellare il corpo della donna e per farlo esige forme sempre più perfette. L'abito è una seconda pelle e tende ad enfatizzare il giro vita, la linea delle spalle, esaltando le braccia. Tutto questo richiede certe proporzioni del corpo e Audrey Hepburn sembra essere la modella sulla quale questi grandi nomi hanno pensato le loro collezioni. Quando Vacanze Romane viene premiata con l'Oscar anche per i migliori costumi in bianco e nero, il pensiero non può che andare a lei e alle sue doti innate di eleganza e a quell'atteggiamento nei confronti degli abiti che il figlio ricorda benissimo. Dopo aver fatto Vacanze Romane, le suggerirono che avrebbe dovuto avere qualcuno che pensasse ai suoi vestiti. Lei era sempre stata attenta all'abito. Per lei la cosa più importante era essere vestita in modo appropriato. La costumista più famosa di Hollywood è la persona che si occupa del suo guardaroba mentre è sul set. Si chiama Edith Head, figura quasi mitologica di quegli anni. Edith è un personaggio singolare. La sua capacità di mediare attraverso l'abito la personalità degli attori e la trama del film trova riscontro negli 8 premi Oscar della sua lunga carriera, 2 dei quali grazie alla madrina d'eccezione Audrey Hepburn. Gli occhiali scuri che non abbandona mai, il taglio di capelli austero che sottolinea i lineamenti duri del viso, bene si combinano con l'intransigenza del suo carattere. La sua fama a Hollywood è indiscussa. Ecco come ne parlano in un TG dell'epoca. For these are creations of the high art and skill of the motion picture costume designer, whose sole function is to provide appropriate dress for motion picture stars and featured players, a vital contribution to the transformation of a human personality into a specific screen character. Dopo il successo di Vacanze Romane, la Paramount vuole capitalizzare sulla nuova attrice che ha stregato con la sua bravura e la sua eleganza tutto il mondo e la scrittura per un nuovo film al fianco di Humphrey Bogart e William Holden, Sabrina. La trama è incentrata sulla trasformazione di un'adolescente americana frustrata per un amore non corrisposto, che ottiene l'apprendistato di donna dopo un periodo trascorso a Parigi. Gli abiti, il make-up, i capelli, in una parola la moda, sono il linguaggio cinematografico attraverso il quale trasferire al pubblico l'evoluzione della giovane ragazza che non riesce a farsi notare nell'emblema della donna sofisticata che riesce ad affascinare gli uomini. Per Audrey è una prova di vita, oltre che professionale. È un po' quello che dovrebbe fare lei, come ricorda il suo ultimo compagno, Robert Walters. Audrey era preoccupata per i difetti del suo corpo. Credeva in modo estremamente modesto di non essere fatta molto bene. Come darle torto? La sua prima insegnante di danza le aveva detto di essere troppo alta per fare la ballerina. La fame sofferta durante la guerra le aveva lasciato quella linea così affusolata. E poi i suoi piedi le sembravano così sproporzionatamente grandi. Lei diceva di essere un perfetto involucro per le imperfezioni. Si vedeva troppo magra, un naso troppo buffo, i piedi troppo grandi per la sua altezza e tante altre cose. Era così che si vedeva. E io penso che la definizione della sua bellezza fosse proprio il non sapere di essere così speciale, cosa che le ha fatto avere successo. That's what makes you accessible. L'indiscutibile bellezza di Audrey non è solo negli occhi e nelle parole del figlio Sean. Quando nel 1954 le propongono Sabrina, è proprio perché i produttori vedono in lei l'attrice perfetta a incarnare lo stile di un'epoca. La moda in quegli anni è dappertutto, sulle riviste, nei negozi, in televisione, perché no, anche al cinema. Il suo viso da ragazzina permette al pubblico femminile di identificarsi con quella parte più libera e pura di Audrey, ma nello stesso tempo il suo portamento e le sue pose da mannequin, anzi da ballerina, la fanno essere la donna matura e padrona del proprio fascino al quale tutte aspirano. Anche stavolta viene chiamata Edith Head, la costumista di Vacanze Romane. Ma visto che la sceneggiatura prevede un cambio di stile radicale a enfatizzare il cambio di vita che si è compiuto dopo Parigi, Audrey decide di andare proprio nella capitale francese a cercare i suoi abiti per quella seconda parte del film, lasciando a Edith il disegno di quelli della prima. E sarà proprio a Parigi che Audrey incontrerà l'artista che realizzerà anche la sua trasformazione. Mentre le Chordette chiedono a Mr. Sandman di portare loro il sogno dell'uomo amato, per Audrey il suo sogno è ad attenderla nell'atelier di un giovane stilista in Europa. Destini incrociati. Destini incrociati è sul set del film Sabrina. È il 1954 e Audrey Hepburn è stata scelta dopo la sua eccellente performance in Vacanze Romane per interpretare una giovane ragazza che trova la sua trasformazione in donna sofisticata dopo un viaggio a Parigi. L'evoluzione passa attraverso gli abiti e dalla necessità di trovare lo stilista ideale a sottolineare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta di Sabrina nasce l'incontro col destino. La costumista di Vacanze Romane, la famosissima Edith Head, viene chiamata dalla Paramount anche per Sabrina. Il lavoro fatto con Audrey al fianco di Gregory Peck è stato fantastico, tanto da aver avuto l'Oscar. Difficile capire dove arriva la bravura di una professionista come Edith e dove comincia la naturale eleganza di Audrey. Il fullarino al collo dell'attrice come accessorio che la segue in tutta la pellicola ricorda molto quel fiocchetto di velluto che Audrey indossava nel suo primo provino. È come se la sua personalità richiedesse a gran voce un certo stile, ed Edith è stata certamente una prima buona interprete. Questo nuovo film, però, ha al centro dello sviluppo drammatico proprio gli abiti, lo stile, la moda, come percorso femminile verso l'affermazione sociale e, perché no, verso una romantica felicità. Audrey ha sempre dato importanza all'abito, soprattutto all'abito appropriato per ogni occasione, e adesso sente che vuole cercare qualcuno che le sappia leggere dentro e che le trovi l'abito per questa occasione. Il figlio ricorda i suoi consigli di vita in famiglia, che sono diventati poi consigli per il pubblico, tanto da diventare presto un modello da imitare. She believed always in underdressing. Nel vestire, lei credeva più nella sobrietà che nello strafare. Ci diceva sempre: è meglio essere l'unico che indossa una giacca blu, dove tutti indossano uno smoking, piuttosto che l'unico in smoking in un'occasione informale. La sua semplicità è la sorgente della sua eleganza. Sabrina ha bisogno di una mano francese che le disegni gli abiti. Il demiurgo che modellerà la ragazza per farne una donna deve essere scelto con cura. Audrey decide così di partire per Parigi per incontrare un giovane stilista che da un paio d'anni ha aperto il suo atelier e che si sta sperimentando nella moda. Uscito dalla scuola Dior, assistente di Elsa Schiaparelli, questo giovane promettente si chiama Hubert de Givenchy. Hubert de Givenchy. Il primo incontro avviene nell'atelier parigino di Givenchy. Come racconta Sean, lo stilista non sapeva chi fosse Audrey Hepburn, ma al primo sguardo le loro due anime si sono riconosciute. C'è una storia molto divertente sul primo incontro tra Hubert e Audrey. Qualcuno lo chiamò dicendogli: Miss Hepburn verrà a farti visita per scegliere dei vestiti per il prossimo film. Lui aspettava Catherine Hepburn. Quando ha aperto la porta e si è trovato di fronte a una giovane ragazza con l'aria da monella e vestita con una specie di divisa da gondoliere veneziano, senza sapere chi fosse, si è trovato spiazzato, ma ha pensato che fosse assolutamente amabile. È nata una partnership e un'amicizia che li ha accompagnati per anni. Adesso si tratta di mettersi al lavoro, si tratta di trovare un involucro esteriore a quell'anima. Hubert è la persona giusta, non solo perché anche lui è all'inizio della sua carriera e avere di fronte un'attrice di Hollywood per quanto emergente che ti chiede di curarle gli abiti è ovviamente una grande opportunità, ma anche perché quell'attrice sembra essere l'incarnazione perfetta della sua musa. Le sue due precedenti collezioni sono state già disegnate in un certo senso per lei, prima ancora che avvenisse quell'incontro. tanto che gli abiti per Sabrina, come ricorda Sean, non sono stati realizzati appositamente per il film, pur sembrando cuciti addosso ad Audrey. Tutti pensano che quei vestiti siano stati disegnati apposta per il film. Invece no, erano vestiti della sua collezione. Anche lui stava costruendo una carriera e non aveva tempo di fermarsi e fare cose apposta per il film. Così prese alcuni pezzi della sua collezione e li adattò perché lei potesse indossarli nel film. È il destino che mette l'uno sulla strada dell'altra. Un giovane designer che si sta facendo conoscere al mondo per le sue linee geometriche ed essenziali e una giovane attrice che sembra essere nata per indossarle. You are my destiny. You share my reverie. You are my happiness. That's what you are. You have my sweet caress. Sabrina è quindi il film che dà inizio alla collaborazione con Hubert de Givenchy, che negli anni diventerà anche sincera amicizia. Dopo quella prima apparizione nel suo atelier, Hubert disegnerà sempre avendo in testa solo lei. Partirò con l'aereo di venerdì prossimo. Ma è inutile che tu venga all'aeroporto. Prenderò il treno e basterà che tu sia ad aspettarmi alla stazione. Arriverò alle 4:15. Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione. Nell'immagine della stazione dei treni, dove Sabrina attende il padre, si condensa tutto il film. La sua posa, il suo abito scuro impeccabile, i guanti neri, il copricapo bianco e il cagnolino al guinzaglio seduto sulle valigie e quanto di più vicino ci sia ad un servizio di una rivista di moda. La grande donna americana che aspetta nuda che sia io con la mia rivista a dirle cosa indossare. La moda gioca un ruolo chiave nel processo di formazione dell'identità di una persona, o almeno è quello che si vuole far credere al pubblico, e Sabrina ne è l'esempio. Tutto il film è un continuo sfoggio di eleganza e charme attraverso le creazioni di Givenchy, tanto che spesso sono Audrey Hepburn e i suoi abiti a prendere tutta l'attenzione, più che lo svolgimento della trama. L'immedesimazione del pubblico femminile in questo splendido esemplare di raffinatezza è immediato. L'obiettivo dettato anche dal periodo storico è ampiamente raggiunto. Ah, Sabrina, Sabrina, dove siete stata tutta la mia vita? Sul set nasce l'amore tra Audrey Hepburn e William Holden, ma quando Audrey sa che William non può avere figli, la relazione finisce. La famiglia è uno dei valori più importanti per la giovane attrice. La sua eleganza risiede anche in questo, nei suoi valori. Nasce da dentro. La sua è una bellezza che parte da un'anima pura. Givenchy ha saputo essere la lente di ingrandimento di quest'anima e proprio per questo, dopo da allora, Audrey non l'abbandonerà più. Riconosciuta come un'icona dello stile tramite la sua collaborazione con Givenchy, sempre scegliendo less is more, come si dice in inglese, meno è più, e dunque togliendo tante cose insieme con Givenchy da questi vestiti finché rimaneva solamente, diciamo, l'iconico vestitino nero. Mia madre ha sempre detto, ho trovato uno stile che funzionava per me e sono rimasto con quello tutta la vita. L'Oscar per i migliori costumi arriva anche per Sabrina. Givenchy, che si è occupato solo del guardaroba dell'attrice, non viene nemmeno nominato nei credits. Come d'accordo con la Paramount, tutta l'onorificenza va alla solita Edith Head. Finito di girare il film e finita anche la relazione con William Holden, Audrey decide di tornare al teatro e lo fa con una commedia francese, Ondine. Regista e interprete al suo fianco, Mel Ferrer. Ondine is a very beautiful love story in which Mel Ferrer and I appear together. Mel plays the knight errant and I play a water sprite. Il teatro le porta bene, vince un Tony Award per la sua interpretazione, ma premio più gradito per lei è innamorarsi di Mel Ferrer. E il 1954 nasce l'icona Audrey Hepburn. Il cinema è per lo più in bianco e nero e nonostante questo gli abiti disegnati da Givenchy sembrano colorare la sua vita. Ha finalmente trovato l'estensione visibile della sua anima. In America cominciano a diffondersi i primi televisori a colori, mentre in Italia la TV è agli inizi. La RAI comincia le sue trasmissioni. La RAI, Radio Televisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono... Il cinema sta entrando nel salotto di casa. Essere icona di stile è una responsabilità maggiore quando maggiore è il pubblico. Il 1954 è anche l'anno in cui la ditta di strumenti americana Fender lancia la Stratocaster, chitarra icona del rock. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo tra l'America e la Francia a metà degli anni 50. Dall'incontro tra una giovane attrice di Hollywood, Audrey Hepburn, e un giovane designer francese, Hubert de Givenchy, nasce uno stile iconico senza tempo e un'amicizia che li accompagnerà tutta la vita. La loro prima collaborazione è stata per il film Sabrina, ma la vera esplosione delle carriere di entrambi sta per arrivare con un altro film culto. Stile, nel caso di Audrey Hepburn, significa estensione di una bellezza interiore, ed è proprio questo che ha visto Hubert de Givenchy la prima volta che se l'è trovata di fronte. Dopo Sabrina non possono più separarsi, non solo perché è nata una bellissima amicizia, ma anche perché i film che vengono proposti all'attrice partono sempre più dalla sua immagine, e lui è l'unico in grado di valorizzarla al meglio, come ricorda Robert Walters, l'ultimo compagno dell'attrice. Audrey mi spiegò una volta che la ragione per cui indossava abiti con la vita alta era perché pensava di avere il busto troppo lungo. Così, qualunque cosa le indossasse, Hubert la disegnava in quel modo, per renderlo più comodo per lei. Aveva certamente il corpo di una modella, qualunque cosa le stava bene, ma era qualcosa di più di questo. Lei si piaceva con una t-shirt e un paio di jeans, e quando si cominciò a parlare dello stile parlando di lei, certamente si pensava allo stile come un'estensione di una bellezza interiore. Dopo la pausa in teatro con Ondine, dove Audrey trova l'amore con l'attore Mel Ferrer, Hollywood le propone un film che racchiude un po' tutte le sue doti. Quelle della ballerina, la sua prima vera passione, e quella della donna affascinante. Al fianco di Fred Astaire è Cenerentola a Parigi, una commessa di una libreria che viene trasformata in una modella di grido. Pensavo di fare di lei una modella. È stata una sua idea. Sì. Credo proprio di sì. Oh, ma come potrei essere una modella? Non mi illudo sul mio aspetto e poi penso di avere una faccia quasi ridicola. Un musical è quello che ci vuole adesso che è anche innamorata. Canta canzoni di George e Ira Gershwin, balla con Fred Astaire e se stessa fino in fondo. La sfilata di abiti anche in questo caso è la sfilata di tutte le sue qualità, dai semplici pantaloni e maglietta neri fino all'abito da sposa ancora una volta dell'amico Givenchy. Nel 1957 Hubert fa addirittura realizzare un profumo per lei, l'Intor D, tale il trasporto che prova verso la sua musa. Anche quando si sperimenterà in ruoli diversi, più drammatici, non abbandonerà mai quello stile e il sodalizio con lui, come nel 1959, quando interpreterà una suora in Storia di una monaca. Pur dando maggior rilievo alle sue doti d'attrice, anche qui non può non trasparire quell'eleganza dello spirito che lo stilista francese ha saputo mettere nei suoi abiti. La Film in Reviews scriverà di lei: questa performance chiuderà la bocca per sempre a quelli che pensavano a lei più come a un simbolo di una donna sofisticata che come a un'attrice. La sua interpretazione della sorella Luke è una delle migliori mai viste sul grande schermo. Ma ecco che nella vita privata arriva il primo figlio, Sean Ferrer, a completare la vita della donna e contemporaneamente arriva il ruolo più rappresentativo a completare il percorso dell'attrice nel film culto per eccellenza, quello che porta sia lei che l'amico Givenchy a essere per sempre associati allo stile e all'eleganza. Colazione da Tiffany, tratto dal romanzo di Truman Capote. Audrey è Miss Holly Golightly, certamente una delle figure più incisive del cinema del XX secolo. E ancora una volta a farla da padrone sono i suoi abiti, gli accessori, quell'atmosfera di semplice perfezione che traspare dal suo portamento e da quel contenitore della sua anima rappresentato dalle creazioni dell'amico Hubert. Le è sempre stato attribuito questo stile, una grande eleganza. Anche se penso che alla fine la grande eleganza venisse da dentro. Per tutti è chiaro, non solo per il figlio Sean. Givenchy crea i suoi abiti e porta a galla la sua personalità, come dirà la stessa Audrey alla stampa. Ho bisogno di Givenchy come una donna americana ha bisogno del suo psicanalista. In una New York che ancora dorme, un taxi si ferma davanti alle vetrine di Tiffany. Molto più di un gioielliere, una cura per l'anima. Dal taxi scende lei. L'abito nero smanicato, i lunghi guanti neri e i fili di perle che le illuminano il viso sono già gli ingredienti di tutto il film. Tutto è già lì. La storia del personaggio e la storia dell'attrice. Verrà nominata per la quarta volta agli Oscar come attrice protagonista. Il film ne vincerà due, per la miglior colonna sonora e miglior canzone. In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to. See the world, there's such a lot of world to see. La perfezione dell'abito nero senza maniche, di linea pulita e delicatamente avvitata sul fondo, si pone come modello di glamour per le donne di tutto il mondo. Le foto che appaiono su tutti i giornali in occasione dell'uscita del film vedono su uno sfondo chiaro e sgombro la silhouette sottile della Hepburn delineata e delimitata dal semplice abitino nero. Vogue dedica all'attrice varie copertine, definendo l'Audrey Style la quintessenza di rigore e charme, col titolo Little Black Dress is Back, il piccolo abitino nero è tornato. Una sorta di infusione di nuova linfa vitale per un capo che sembrava démodé. La Maison Givenchy viene subissata di richieste. Ogni donna desidera comprare insieme il tubino e il sogno di essere chic. Il magico potere di trasformare qualunque abito, per il solo fatto di indossarlo, in stile allo stato puro. Jackie Kennedy sarà l'altra donna icona di quello stile. Sembra che gli abiti per il funerale del marito siano stati ordinati per telefono e confezionati in brevissimo tempo da Hubert, che aveva tutte le misure della famiglia Kennedy. L'Audrey Style è anche quello del suo viso. Mi ricordo ore prima di girare, stava nella roulotte dove si faceva truccare, e veniva messo questo mascara e poi ogni ciglio separato con uno spillo proprio per fare questo look meraviglioso degli occhi grandi. Il suo look è curato nei minimi particolari, come ricorda il figlio Sean. E se gli occhi sono specchio dell'anima, nel caso di Audrey non ci sono dubbi sulla sua grandezza. Le scelte che farà nella vita, dopo aver abbandonato la carriera cinematografica, non fanno che avvalorarlo. Dopo Colazione da Tiffany, le pellicole si susseguono con i migliori registi, i migliori attori e i migliori sceneggiatori. Nel 1964 arriva un'altra storia dove la sua trasformazione passa di nuovo attraverso l'abbigliamento, nel musical My Fair Lady. 12 nomination agli Oscar, un successo incredibile. A consegnare l'Oscar al professor Higgins, Rex Harrison, sarà proprio lei. The annual Academy Awards and the bestowing of the coveted Oscars has a glittering audience on hand to hear Audrey Hepburn announce the best actor. Il suo primo pensiero, però, è sempre la famiglia, come ricorda l'amica Connie Wald. Lei amava stare a casa con la famiglia. Ha sempre avuto rispetto per la carriera, ma la sua famiglia è sempre venuta prima. Quando nel 1967 girerà Due per la strada, la storia di una coppia arrivata ormai alla fine della propria relazione, una strana coincidenza la vede anche nella vita alle prese con la fine della sua relazione con Mel Ferrer. Ma solo un paio d'anni dopo è di nuovo innamorata. si sposerà per la seconda volta con uno psichiatra italiano, Andrea Dotti, da cui avrà un altro figlio, Luca. Fare la madre è quello che le interessa di più, fino ad arrivare nel 1988 a smettere di fare l'attrice. Ho smesso un po' perché la vera ragione era che il mio primo figlio doveva andare a scuola, non potevo più portarlo con me e non mi andava di stare l'altra parte del mondo con lui. L'ultima apparizione è dell'88, in Always di Steven Spielberg, nel ruolo di un angelo. Richard Dreyfuss ne parla così. Mi ricordo che Steven stava pensando a chi potesse fare Dio, o comunque un angelo, e poi disse Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. And everyone went. E tutti rispondemmo, oh sì, certo. Oh yeah. La sua eleganza ormai è quella dell'anima che non riesce più a rimanere nascosta. Lei è sempre la Miss Holly-Golightly col vestitino nero, ma è anche la donna che cerca il modo di donare agli altri quella trasparenza di valori. Nel 1988 diventa così ambasciatrice dell'UNICEF, come ricorda l'amico Harry Belafonte. Lei era stata toccata profondamente dal ruolo che UNICEF aveva avuto nella sua vita. Voleva essere utile. C'era quella passione in lei. Nel 1992, al ritorno di uno dei suoi viaggi dalla Somalia come ambasciatrice, scopre di avere un cancro. Non c'è più molto da fare. Quando l'amico Hubert viene a sapere che non si trovano voli liberi che dall'America, dove Audrey ha visitato i migliori specialisti, la riportino a casa sua in Svizzera, decide di mettere a disposizione il suo jet. Per onorare l'amica, fa riempire la sua cabina di fiori. Morirà a soli 63 anni, il 20 gennaio del 1993. Se è vero che bellezza è verità, e verità è bellezza, Audrey ne è la prova vivente. L'attrice e la donna impegnata nel sociale sono i due aspetti della stessa bellezza e verità, una differente manifestazione della sua eleganza. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.